Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, ben ritrovati ad un nostro nuovo appuntamento dedicato, ahimè, alla crisi economica e ai consumi delle famiglie italiane. È un tema che, lo sapete, lo sanno soprattutto gli affezionatissimi di Salva Danaio. Stiamo seguendo da diversi mesi perché tutti stiamo osservando e analizzando come la crisi sta traducendosi nei comportamenti dei consumatori, come cambiano le nostre spese, verso quali generi di consumo si risparmia, quali invece mantengono un inalterato trend di crescita o addirittura crescono, quindi non ne mantengono un inalterato trend di sviluppo, ma addirittura si sviluppano ulteriormente. In questi mesi abbiamo affrontato la questione analizzandola da molteplici punti di vista. Abbiamo parlato molto spesso delle iniziative promozionali a tutto campo della grande distribuzione per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie. Abbiamo parlato dell'invito all'acquisto dei prodotti con le vendite dirette dei produttori. Ricordate, abbiamo fatto anche una puntata sulla campagna Amica di Coldiretti, i mercati del contadino, i gruppi d'acquisto. Tutto questo ha comportato naturalmente, ovviamente, l'apertura di varie opportunità d'acquisto per i consumatori, ma anche contestualmente l'apertura di diversi focolai di crisi, perché i grandi centri commerciali riescono sicuramente ad essere più aggressivi verso le difficoltà congiunturali, i piccoli negozi no, e infatti secondo recenti statistiche di Confesercenti hanno chiuso i battenti almeno 20.000 esercizi commerciali nel primo trimestre di quest'anno. Stamattina ci faremo anche confermare se questa tendenza sia continuata o meno, noi speriamo di no, però insomma questo è il tema che stamattina ci piacerebbe di nuovo affrontare. Scusate se mi interrompo ogni tanto, ma questa gola in questi giorni non so dove sia finita. E il tema appunto che continueremo ad affrontare anche oggi, che torniamo ad affrontare oggi grazie anche ai vostri spunti, alle vostre considerazioni che ci potete rivolgere come sempre fate all'800 24 00 24, ma aspettiamo anche i vostri messaggi al 349 238 6666. Con chi ci confrontiamo questa mattina? Con Mauro Bussoni, vice direttore generale di Confesercenti, con Roberto Bucaneve, direttore del Centro Studi di Centro Marca, e Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori. Allora ritorniamo a chiedervi, questo è lo spunto che vi lancio: come è cambiato il vostro carrello della spesa? Stessa qualità ma meno in quantità? Dove avete tagliato e a cosa non siete disposti a rinunciare nonostante la crisi? La borsa, prima di aprire quella della spesa, oggi guardiamo quella finanziaria, borsa valori. In Europa stamattina abbiamo un trend che era di nuovo iniziato piuttosto bene fra i listini del vecchio continente. Adesso c'è un po' di debolezza che sta investendo Londra, meno 0,37%. Tutto sommato però c'è una tenuta, terza giornata consecutiva di rialzi per i listini internazionali. Ieri sera Wall Street ha chiuso però contrastata. Abbiamo un più 0,10% per Parigi, un più 0,42% per Francoforte, quindi anche le piazze che mantengono ancora il territorio positivo stanno viaggiando leggermente al di sotto dei massimi di seduta che sono stati toccati in mattinata. Abbiamo Milano che guadagna lo 0,49%, quindi sta dimezzando il suo guadagno che era riuscita a mettere a segno nella prima parte della giornata. MIPTEL più 0,79%. Su quali titoli puntano gli operatori stamattina? Su A2A più 3,48, su Finmeccanica più 3,24, ancora su CIR, questo gruppo da quando ha presentato i conti ormai un mese fa sta continuando a correre, non si ferma mai, non si ferma più, più 3%, Mediobanca più 3, Davide Campari più 2,29, Mondadori più 2, Fondiari Assai più 2%, Bulgari più 1,85. Il petrolio è tornato a superare i $60 al barile, stamattina i titoli petroliferi infatti ne risentono positivamente, con Eni che guadagna l'1,56%. Perde 2,5 punti, Mediolanum, Lottomatica ne perde l'1,82%, Buzzi Unicem meno 1,21, Unipol meno 1,22, meno 1,2% anche per il Banco Popolare, per Unicredit, per Ubibanca, Fiat meno 0,45. Il Lingotto stamattina si era di nuovo svegliato piuttosto di buon umore. Oggi il gruppo con altri gruppi presenta la sua offerta per Opel. Secondo il ministro Scajola ci sono delle buone opportunità che proprio il Lingotto la possa spuntare per la compagnia tedesca, se ne è parlato molto in questi giorni, non ci ritorniamo. In ogni caso il titolo del Lingotto stamattina ha avuto anche un giudizio positivo di Goldman Sachs, che l'aveva fatto fiondare a 8 euro, adesso invece è tornato un po' a scendere, meno mezzo punto, 7,80 euro. L'euro sul dollaro, quotazioni a 1,36,42. Noi lasciamo la borsa, andiamo invece subito al tema di questa mattina, ritorniamo sui consumi in tempi di crisi. L'estate si avvicina E gli italiani quest'anno avranno almeno una consolazione in vista della prova costume. La classica dieta di primavera, infatti, in tempi di crisi come quelli attuali, ha un riflesso positivo anche sul portafogli. In realtà, dieta o meno, sono molti i consumatori che per risparmiare hanno cambiato le proprie abitudini d'acquisto. Circa il 60% degli italiani sta affrontando la crisi con una riduzione dei consumi. Lo rileva il Censis in uno studio relativo ai primi 4 mesi del 2009 e quasi il 70% ritiene che il peggio debba ancora arrivare. In particolare si rinuncia più spesso ai consumi fuori casa. Chi può permetterselo compra meno ma con maggiore consapevolezza, senza risparmiare sulla qualità. C'è molta attenzione verso la cura di sé e del proprio corpo, con la scelta di prodotti cosmetici e rivolti al benessere. E lo stesso vale per l'alimentazione. I consumatori leggono l'etichetta per controllare gli ingredienti e verificare la tracciabilità dei prodotti e, nel dubbio, preferiscono il biologico. Ma come rispondono produttori e commercianti a questa evoluzione dei consumi? Mentre la grande distribuzione, grazie a offerte e politiche promozionali, sembra per il momento resistere alla sfida, a pagarne le spese sono soprattutto i piccoli esercizi. Sono già 20.000 le botteghe che nel primo trimestre del 2009 hanno abbassato le saracinesche, contro 30.000 in tutto il 2008. Infine, nonostante la forte concorrenza dei prodotti a marchio del venditore, si registra la buona riuscita delle grandi marche. A marzo le vendite sono aumentate dell'8,1%, segno che i produttori sono riusciti a interpretare le tendenze in atto nel mondo dei consumi. Ecco, tra l'altro questi sono tutti i temi di cui si è parlato nel fine settimana ad un appuntamento molto importante che c'è stato a Cagliari. Io ci sono stata così anche un po' per monitorare quello che succede nell'incontro del gruppo Nielsen, e si incontrano in questa sede ogni anno la grande distribuzione e i produttori per fare un punto della situazione. Quest'anno naturalmente c'è stata un'attenzione sicuramente molto più importante rispetto a queste nuove tendenze, perché è stato detto, forse questa è la cosa macroscopica che è uscita da questo convegno, insomma da questa, non è stato in realtà un convegno perché sono 3 giorni di confronto, è che in realtà sì, la crisi c'è, forse non è neanche stato toccato il punto minimo per i consumi nel nostro paese, ma l'industria è pronta a poter affrontare anche questa fase di debolezza, di intercettare le nuove tendenze. Magari anche su questo ci confrontiamo questa mattina. Buongiorno a Roberto Bucaneve, direttore Centro Studi di Centromarca. Benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie anche a Mauro Bussoni, vice direttore generale di Confesercenti. Buona giornata. Grazie a voi, saluto a tutti. E al presidente del Movimento Consumatori, Lorenzo Miozzi. Presidente, benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, il numero verde, io ve l'ho ricordato, è l'800 024 0024. Raccontateci un po' come vedete in questo momento questo problema. Io sto già notando telefonate di tenore molto diverso. C'è chi dice che i prezzi continuano ad essere alle stelle, chi invece è un po' più convinto che comunque la situazione sia un po' più sotto controllo rispetto a qualche mese fa. Sicuramente lo è, perché il petrolio per esempio ha dimezzato le sue quotazioni e tutto il riflesso che il petrolio determinava sui prezzi in termini generali dei generi di largo consumo sicuramente si è ridimensionato. Ci sono però altri problemi adesso, ci sono famiglie che hanno drasticamente rivisto il loro budget mensile, perché qualcuno ha perso il posto di lavoro, qualcuno è in cassa integrazione, le entrate sono molto molto inferiori. Presidente Miozzi, Movimento Consumatori, allora io comincio proprio con lei. Ci racconti un po' quali sono in questo momento, dal punto di vista del carrello della spesa, le preoccupazioni degli italiani. Beh, credo che in Italia scontiamo comunque un passaggio lira-euro che aveva già negli anni scorsi modificato i comportamenti d'acquisto dei consumatori, per cui a distanza di questi anni stiamo ancora parlando di questo, Presidente, mi sta dicendo? Sì, stiamo ancora parlando di questo perché paradossalmente nel nostro paese la situazione delle singole famiglie, dei singoli consumatori era già difficile e ha trovato, come dire, nel momento della crisi paradossalmente quasi erano già preparati, nel senso che avevano già ridimensionato i consumi negli anni precedenti. La crisi della quarta settimana, sì, voglio dire, se ne parla già da tempo, per cui in qualche modo le famiglie italiane avevano già modificato i comportamenti d'acquisto. Chiaramente la crisi li ha aggravati e dal punto di vista pratico per coloro che hanno visto, come ha detto giustamente lei, perdere il potere d'acquisto perché hanno perso il posto di lavoro, oppure anche per un effetto psicologico, perché ovviamente la crisi ha anche effetti psicologici, parlando sempre di crisi, di crisi, di crisi, e naturalmente tutti stanno a guardare che succede e magari aumenta la propensione al risparmio. Allora sì, sono tendenze sicuramente interessanti. Roberto Bucaneve, direttore centro studi di Centromarca, in questi mesi in cui abbiamo spiegato per lungo e per largo tutte le grandi iniziative che la grande distribuzione ha messo in campo per poter, lo dicevamo prima, salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, abbiamo parlato molto spesso anche, per esempio, del risparmio che le famiglie possono trovare qualora acquistassero i prodotti a marchio del centro commerciale, per esempio, faccio un esempio, la pasta dell'Esselunga piuttosto che del GS, eccetera. Sicuramente questa tendenza a voi non so quanto sia piaciuta e quanto vi sia piaciuta il fatto che sia stata tanto sponsorizzata. Prima però di commentare questo, che è comunque un canale per risparmiare e in qualche maniera molti di noi hanno utilizzato questo canale, ci aiuta a spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si occupa la vostra organizzazione, così spieghiamo anche le motivazioni per cui vi abbiamo invitato. La nostra organizzazione, il Centro Marca, è l'associazione che rappresenta in Italia le grandi marche industriali di produzione di beni di largo consumo e quindi rappresenta tutte le aziende che sono titolari, producono e commercializzano i marchi più noti e più utilizzati dai consumatori italiani. Tenga conto che se prendiamo i prodotti che sono venduti in un centro commerciale o in un grande supermercato, il 70% di quei prodotti sono prodotti delle grandi marche, prodotti delle aziende che noi rappresentiamo. Ed infatti quello che vediamo in questi mesi, che sono certamente mesi di difficoltà, e comunque una situazione in cui i prodotti di largo consumo sono complessivamente continuano a essere comprati, quindi in un certo senso sono in un settore anticiclico, se pensiamo ai meno 20 o meno 30 che sono stati realizzati nel settore dell'automobile, per esempio. E per i prodotti di marca in particolare abbiamo avuto un certo numero di mesi in cui l'andamento delle vendite è stato positivo. Positivo addirittura. È il segno che i consumatori italiani, nonostante le difficoltà che sono presenti, si orientano comunque a delle scelte rispetto ai beni di consumo che privilegiano la qualità e per cui continuano ad apprezzare il valore che viene offerto dai prodotti di marca. Certo, ecco, però questi prodotti di marca che vanno distribuiti attraverso i supermercati, i centri commerciali, ovviamente hanno dovuto confrontarsi proprio con la distribuzione in questo periodo per poter sostenere le famiglie, come dicevamo prima. So che ci sono state delle fasi di trattativa anche un po' complicate, dottor Bucaneve, perché ovviamente i distributori chiedevano in qualche maniera di fare uno sforzo congiunto per poter mettere sui banconi dei supermercati i prezzi dei generi alimentari con dei prezzi sostenibili. Addirittura abbiamo raccontato di una grande insegna qualche mese fa che non si era messa d'accordo con i produttori al punto tale da aver fatto sgombrare tutto lo spazio che gli era destinato nel supermercato da questi prodotti. Insomma, quindi anche per voi credo che siano stati dei mesi un po' complicati proprio per queste trattative. Certamente sono stati mesi complicati. Quello che noi pensiamo comunque è che l'industria di marca è venuta significativamente incontro alle esigenze dei consumatori, di risparmio anche dei consumatori, con promozioni molto significative e molto importanti che tutti i consumatori hanno potuto beneficiare nei punti di vendita. Pensiamo anche che in una economia di mercato è giusto ed è normale che ci sia una varietà di offerta a diversi livelli di prezzo e a diversi livelli di qualità, in maniera tale che i consumatori abbiano un'ampia possibilità di scelta. E quindi la cosa che noi pensiamo di sia necessario privilegiare è una concorrenza molto forte in cui i consumatori hanno la possibilità di scegliere. In questo senso la responsabilità di fissare i prezzi dei prodotti insieme ai livelli qualitativi correlati è la massima responsabilità che le imprese si assumono nel momento in cui... Il tema della concorrenza peraltro è molto interessante, perché stiamo vivendo in una fase in cui il tema della liberalizzazione è stato un po' accantonato. Questo è molto a cuore all'amministratore delegato della Conad, Camillo De Berardinis, che io ho avuto modo di sentire questo fine settimana. Poi vi propongo uno straccio di questa intervista che affronta esattamente questo punto. Prima però vorrei dare la parola anche a Mauro Bussoni, vice direttore generale di Confesercenti, perché insomma, questa organizzazione, invece questa associazione, ha subito un contraccolpo piuttosto pesante per la crisi. I negozi al dettaglio stanno registrando, come dire, delle chiusure in continuazione. Nel primo trimestre di quest'anno meno 20.000 punti vendita. Quali settori merceologici hanno sofferto di più, dottor Bussoni? Ma guardi, per la verità la crisi è una crisi che va avanti da almeno un triennio. Lei prima ha dato alcuni dati. Già nel 2007 c'era stata una contrazione per quanto riguarda gli esercizi al dettaglio, nel 2008 c'è stata una contrazione ben più ampia di quella a cui lei faceva riferimento, non 30.000 ma più di 50.000 esercizi che hanno chiuso. Nei primi tre mesi di quest'anno hanno chiuso 20.000 esercizi, o meglio, il saldo fra aperture e chiusure è stato di 20.000. Il dato che preoccupa più è che anche le nuove aperture in senso assoluto sono molto più basse rispetto a quelle registrate nell'anno precedente, 140.000 aperture nel 2008 e solamente 110.000 aperture nel 2009, quindi è evidente che c'è una crisi per quanto riguarda le piccole imprese, c'è una crisi per quanto riguarda gli esercizi commerciali in particolare. La crisi si abbatte principalmente nei settori cosiddetti maturi del consumo, quindi i generi di largo consumo, alimentari e abbigliamento soffrono comunque questo tipo di situazione particolare. C'è una modifica per quanto riguarda le abitudini dei consumatori. Il consumatore comunque italiano è un consumatore attento alla qualità e attento al prezzo. Si sono modificate delle abitudini, ci si rende conto che è più conveniente comprare prodotti ortofrutticoli freschi, poi dopo lavarli e conservarli a casa, che non andarli a comprare già lavati, perché ovviamente il costo è molto superiore. Si torna a fare il pane in casa, insomma si torna a fare alcune cose e si mangia meno fuori, però anche qui tutti dobbiamo avere presente che comunque la quota destinata dalle famiglie italiane mediamente per i consumi alimentari è una quota che non supera il 20%, le famiglie meno abbienti hanno una percentuale più alta, le famiglie che hanno più disponibilità economica ne destinano meno. Ecco, quindi, mentre questi nuovi orientamenti nel consumo, magari la grande distribuzione può intercettarli un po' meglio, per un negozio al dettaglio è un po' più complicato. Il negozio al dettaglio punta sulla qualità, punta sul fatto che comunque garantisce un servizio di vicinato, punta sul fatto che garantisce un'offerta più specialistica, dà dei consigli e quant'altro. Il problema vero è quello di garantire equilibrio fra le diverse forme distributive. Se già oggi il 70% dei generi di largo consumo passa dalla grande distribuzione, vuol dire che si è creato uno squilibrio per quanto riguarda anche l'assetto urbanistico delle città. Prima lei faceva riferimento alle liberalizzazioni. Di fatto l'unico settore nel quale si è prodotta una fase amplissima di liberalizzazione è proprio quella. È sicuramente quello del settore del dettaglio. Poi dopo c'è chi piange ancora perché dice si continua comunque a bloccare tutto e quant'altro, però su questo andrebbe fatta un'analisi molto più approfondita. Insomma, infatti. Il problema della presenza dei negozi nei quartieri, nei centri urbani, nelle periferie, è una presenza fondamentale per l'equilibrio della vita dei cittadini, per il servizio aggiuntivo. Il problema è che adesso per questi discorsi, diciamo, come dire, di aspetto socio-economico c'è poco spazio, perché la crisi sta imponendo tendenze diverse. Eccoci di nuovo a Salvadanaio e rieccoci su un tema che abbiamo già tante volte affrontato negli ultimi mesi. Qualcuno si è anche seccato, c'è un negoziante di Roma che per esempio ci ha telefonato dicendoci che siamo deleteri perché affrontiamo questo argomento e stiamo demolendo la psiche dei commercianti. Ci dispiace, noi cerchiamo di fare anche un dibattito con l'aiuto degli ascoltatori che sia costruttivo per analizzare in maniera molto realistica la situazione. Una situazione che la crisi morde, che forse non ha toccato il suo punto massimo in termini negativi naturalmente nel nostro paese. La questione è che molte famiglie hanno drasticamente cambiato le abitudini di spesa, perché è cambiato il budget disponibile, sono cambiate le entrate, le entrate sono inferiori perché qualcuno ha perso il posto di lavoro, perché qualcuno è in cassa integrazione, per cui delle rinunce si devono fare, anche se per certi versi, secondo anche quanto ci indicavano i nostri ospiti stamattina, non c'è un ridimensionamento così drastico, perché comunque gli italiani continuano ad amare la qualità, per esempio, dei prodotti alimentari che mettono sulla propria tavola, per cui magari ci si rinuncia un po' in termini di quantità. Si è anche un po' riconquistata la dimensione domestica delle proprie abitudini, e questo è un po' anche il tema che, come vi dicevo in apertura, è uscito fuori da questa grande kermesse che si è svolta a Cagliari nel fine settimana, dove la grande distribuzione si è incontrata col mondo della produzione. Allora cominciamo con il sentire i nostri ascoltatori e poi farò commentare i vostri interventi ai nostri ospiti appunto di stamattina. Mariella da Trieste, volevo proprio cominciare con lei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, intanto permetta che faccia i complimenti a lei che la seguo tutti i giorni. Grazie. Averne di donne come lei, eh? Guardi, detto guardi, da una donna ci fa proprio con tutto il cuore, mi creda, perché la seguo e mi piace il suo modo di presentare l'approccio con gli ascoltatori. Grazie Mariella. Naturalmente saluto i suoi ospiti. Gli ospiti di Salvadanaio. Senta una cosa, io volevo dire, ma che fine ha fatto Mr. Prezzi? Lei si ricorda al suo tempo che si parlava sempre di Mr. Prezzi che doveva sa quante volte l'abbiamo invitato e tergiversa un pochino? Il nuovo, perché ce n'è uno nuovo da febbraio, c'è una nuova figura. Sì, ma io non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito, ma niente, voglio dire, una figura completamente un fantasma. Dopodiché volevo dire che non c'è concorrenza, mi creda, perché anche i supermercati, diciamo, la frutta e la verdura nei supermercati è a prezzi impossibili, perché effettivamente io non la capisco questa politica dei supermercati che hanno questi prezzi insostenibili. E poi Mariella, lei come ha cambiato le sue abitudini con la crisi? È cambiata anche la sua... qualche cosa, io sono una persona, cioè parlo della mia famiglia, che noi siamo persone abbastanza moderate, ma mangiamo molto, non tanto la carne, ma molta frutta e verdura e cibi abbastanza semplici, tutto sommato. Però la qualità, insomma, è sempre presente. Ma al di là di questo, io vedo quando vado al mercato della frutta e verdura che anche là, no, c'è qualche persona che gira fra i banchi, sempre gli stessi venditori, e che fanno un po', guardano i prezzi degli altri e li fanno tutti uguali, cioè non c'è concorrenza. Questo è l'assurdo di tutta questa cosa. Per poi tornare al discorso che avete fatto qualche giorno fa per quanto riguarda la Coldiretti. La Coldiretti io penso che dovrebbe fare un bel banco grande in ogni città, andare in città, in centro, e vendere i loro prodotti ai consumatori. Sì, beh, ma con Campagna Amica credo che loro abbiano fatto un lavoro di questo tipo, solo che chiaramente nelle grandi città bisogna individuare anche il posto giusto, perché adesso non mi ricordo quanti punti abbiano teoricamente autorizzato con Campagna Amica, però sono tanti, Mariella. Però lei dice, insomma, potrebbero fare un po' di più, rendersi più visibili se non altro. No, ma voglio dire che a Trieste c'è stato un esperimento che funziona benissimo. Allora, un signore che ha delle barche che va a pesca, no? Sì. Si è messo in proprio in un posto centrale di Trieste, e allora vende il suo prodotto subito dalla pesca mare, al consumatore. E non le dico, comincia alle 7 di mattina, c'è una fila incredibile, naturalmente c'è stata la rivolta delle altre pescherie, ma dopo naturalmente tutto è rientrato e lui continua a vendere. E le assicuro beh, sa com'è Mariella, però lì ci sono anche questioni, come dire, legate anche alla distribuzione dal punto di vista delle condizioni igieniche, e comunque voglio dire, come consumatori dobbiamo stare molto attenti anche a quell'aspetto là. Comunque io la ringrazio per le sue sollecitazioni, immediatamente le giro ai nostri ospiti. Allora, Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori. Un anno fa, quando c'era alla carica di garante per la sorveglianza dei prezzi Antonio Lirosi, io mi ricordo che era proprio il periodo in cui il petrolio stava cominciando a volare, e le varie filiere di ogni genere Lirosi le aveva convocate spesso, era partito con i controlli sulla carne, sul latte, eccetera. Abbiamo adesso un nuovo Mister Prezzi, adesso non voglio ovviamente giudicare il lavoro del nuovo, perché lo valuteremo. Voi vi incontrate come associazione dei consumatori con il nuovo Mister Prezzi? Che cosa sta facendo adesso? Stavo considerando la telefonata e pensavo anch'io alla differenza tra un anno fa e quest'anno, ma non è dovuta alla persona. Infatti assolutamente, la situazione è diversa. Parlavo infatti del petrolio, ho citato esplicitamente quell'aspetto perché il dinamismo forte di Lirosi era dato anche da un'apertura, come dire, politica del Ministero dello Sviluppo Economico, che gli consentiva di operare su più fronti e molto sulle tariffe, sui prezzi dei beni di alimentari. Lei ha citato, aggiungo le filiere dei cereali. Il nuovo Mister Prezzi invece ha avuto un indirizzo politico di operare sul costo, sul valore dei servizi pubblici, e quindi c'è stato un cambio di direzione politica e per cui è giusto, mister prezzi, così come ce l'eravamo prefigurati, funzionasse come istituzione, in realtà ha cambiato completamente modo e obiettivi. E a mio avviso è un indebolimento per il consumatore. Prima si citava dei prezzi, sì è vero, fondamentalmente abbiamo prezzi stabili, ma quello che denunciamo noi è che il petrolio, il prezzo del carburante improvvisamente è aumentato molto più rapidamente di come diminuisce, infatti stiamo contestando al ministro Scajola questo dato e che occorre fare chiarezza sulla determinazione del prezzo. Il prezzo della pasta. Nel corso di 12 mesi il prezzo dei cereali è diminuito fortemente, il prezzo della pasta non è diminuito. E quindi il cartello della pasta è stato anche multato pesantemente dall'autorità garante del mercato. Il cartello, però prezzo di pane e pasta non sono diminuiti, quindi tensioni sui prezzi ce ne sono, non sono più quelle degli anni scorsi, però naturalmente si sono stratificate. Il secondo aspetto della considerazione dell'ascoltatrice di Trieste, lei vorrebbe più contatto diretto con per esempio il pescatore, faceva il caso appunto del pescatore, con l'agricoltore che dice visto che c'è un'iniziativa istituzionale di Coldiretti cerchiamo di fare in modo che magari questi punti vendita siano più presenti su tutto il territorio. Io credo che il tema delle liberalizzazioni sia un problema serio. Nel senso che è stato affrontato nel nostro paese tardissimo, quando in realtà ci si poteva già attrezzare per tempo, visto l'evolversi della situazione, e per di più oggi abbiamo addirittura tensioni e oppressioni politiche per cui anche le liberalizzazioni che sono state fatte vengano in qualche modo... Fermo, guardi, lei mi sta dando proprio l'assist giusto per sentire l'intervista che abbiamo fatto a Camillo De Berardinis, l'amministratore delegato di Conad, che proprio su questi punti ha voluto dire la sua. La prima azione è quella di sostenere la domanda investendo sui prezzi. L'altra è questa strategia di entrare in nuovi mercati come quello delle parafarmacie, dei carburanti. Entreremo nel settore dell'ottica a ottobre con 2-3 nuove aperture test, e nel settore della ristorazione abbinata al supermercato, dove abbiamo già realizzato una serie di punti di vendita per cercare di offrire nuove opportunità ai nostri consumatori con un livello di prezzo a qualità comparabile più basso rispetto a quello che il mercato offre in situazioni analoghe. Quindi l'obiettivo è nella benzina tra i 7 e i 10 centesimi litro in meno, nelle parafarmacie tra il 20 e il 30% in meno sui farmaci da banco, altrettanto pensiamo di fare sull'ottica, e quindi questo è la strada che oggi un'azienda della distribuzione può seguire sia nel quella che è la sua attività più tradizionale sia entrando in nuovi settori. Ecco, strade che voi continuate a percorrere nonostante recenti orientamenti politici invece sembrano andare... Continueremo ad andare avanti fino all'ultimo secondo utile nel portare avanti questa politica, nel realizzare questa politica, e nello stesso tempo ci batteremo perché questa ondata di restaurazione si arresti e quantomeno queste piccole aperture che avevamo avuto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, queste piccole conquiste poi per il consumatore vengano salvaguardate. Mauro Bussoni di Confesercenti, le volevo chiedere la sua su questi punti, visto che lei li ha toccati anche nella prima parte del suo intervento, forse per aggredire la crisi anche... La vendita al dettaglio può meglio focalizzarsi su quei settori nei quali siamo sguarriti, quindi approfittando delle opportunità che le liberalizzazioni potrebbero far cogliere nel nostro paese, i carburanti, le parafarmacie. Noi siamo dell'opinione che tutti i processi, comunque il mercato debba trovare un equilibrio. Non sempre le liberalizzazioni, la mancanza di regole creano opportunità per i consumatori. Cito due esempi che sono agli occhi di tutti. Si è stato liberalizzato con la riforma Bersani insieme alle parafarmacie anche tutto il settore della panificazione. Hanno aperto negli ultimi anni tantissimi forni nuovi. Per quanto riguarda il prezzo del pane, comunque non si è registrata una diminuzione per quanto riguarda la vendita al dettaglio. Infatti Miozzi lo diceva. I taxi è stato liberalizzato il settore, non è migliorato il servizio e non sono stati diminuiti i prezzi, ma si potrebbero fare 100.000 esempi. Il problema vero è quello di non cercare semplificazioni, anche la vendita a chilometri zero. Chi è consumatore attento e va a acquistare prodotti biologici, prodotti direttamente presso i poderi agricoli, eccetera, si accorge che molto spesso il prezzo che paga e la qualità che acquista non è particolarmente vantaggiosa rispetto a quanto può acquistare all'interno di un esercizio specializzato, di un supermercato, di un mini mercato o quant'altro. Il problema vero è che ciascuno deve fare in modo corretto la propria attività. La filiera è una filiera indispensabile per come vive la società nostra. Più si riduce, ovviamente più ci possono essere dei vantaggi per i consumatori, ma l'azzeramento totale è un azzeramento impossibile, cioè il consumatore è un obiettivo un po' complicato da raggiungere. Deve fare assolutamente delle valutazioni, tenuto conto di quelle che sono le sirene che cantano e suonano qualche volta, ma poi dopo non hanno, e vedere Bussoni, sostanzialmente sì. Qual è la cosa che offre di più. Mi devo fermare perché ci sono ascoltatori che bussano alla porta. A Salvadanaio ritorniamo a sentire i nostri ascoltatori. Demetrio era caduto, ma io ho voluto recuperarla perché mi piace molto la sua considerazione. Buongiorno. Buongiorno Paola, sono io Demetrio. Lo so. Volevo fare questa considerazione. Io vorrei fare una critica alla grande distribuzione rispetto ai prezzi che applicano praticamente. Sì. Io lavoro in un'azienda di salumi e ho già anche una passata esperienza nella grande distribuzione come quadro dirigente praticamente. Sì. E so per certo che i ricarichi che applica la grande distribuzione nei prodotti possono variare dal 100 addirittura al 200%. A sentire loro hanno compresso i margini, si sono praticamente assorbiti tutta la problematica dell'aumento dei prezzi. Guardi, in questi mesi lei dice che non è così? Io lavoro per un'azienda di salumi, praticamente ho in mano i listini degli ultimi 10 anni. Noi vendiamo prodotti per esempio a 3,50 euro, li ritroviamo nel supermercato a 10,50 euro. Quindi se lei lo andasse a comprare come consumatore troverebbe il suo salume venduto a quel prezzo, maggiorato, sì, di quante volte? Almeno 4 volte, sì. Anche di 4 volte, mi ritrovo praticamente che così si strangolano le aziende, in poche parole, specialmente le piccole. Rendiamo un pessimo servizio ai consumatori, visto che le aziende di solito per abbattere un po' i costi qualcosa devono pur fare praticamente. Nel caso dei salumi la qualità della carne non può essere al 100% di prima qualità. Demetrio, può esserci un aumento delle quantità praticamente di che ne so, anche del settore dell'acqua in questi prodotti, insomma. E vorrei dire, mister prezzi, questa figura insomma così sciocca, sinceramente io la chiamo, invece di fare tanti bei discorsi e tanti bei controlli così fatti a casaccio nei mercati che non servono a niente, basterebbe che andasse nelle direzioni centrali della grande distribuzione, prendesse le fatture di acquisto dei prodotti e fa un bel controllo al prodotto acquistato e prodotto venduto. Infatti, il problema di mister prezzi e Demetrio, come avevamo denunciato anche un anno fa quando avevamo presentato l'istituzione di questa nuova figura, che non ha alcun potere sanzionatorio, pertanto come dire esegue dei controlli, fa una moral suasion, così definiamola, poi però ecco l'intervento si ferma lì. Demetrio, però vorrei dare spazio anche ad altri, ma prendiamo atto della sua considerazione. Io la giro a Roberto Bucaneve, direttore Centro Studi di Centromarca. Questo riguarda tutti i prodotti, questo fenomeno che ci diceva Demetrio, insomma quello che i grandi produttori vendono alla grande distribuzione per poi far sì che i prodotti vengano venduti a prezzi così differenti rispetto a quello che noi troviamo poi sul bancone? Beh, certamente c'è una differenza tra il prezzo di cessione dei prodotti ed il prezzo a cui i prodotti vengono venduti al consumatore finale. Tenga conto però del fatto che queste differenze sono estremamente diverse a seconda delle tipologie di prodotti, delle categorie di prodotti, e che generalmente c'è una così grande concorrenza tra le catene della grande distribuzione che in effetti i margini che i grandi distributori possono permettersi non sono così elevati. Credo che proprio per questo motivo la garanzia massima per i consumatori è quello che ci sia un regime di concorrenza molto spinto, in maniera tale che non sia possibile da questo punto di vista creare delle sacche di rendita tra virgolette attraverso un innalzamento dei prezzi. Credo anche un'altra cosa però, che stiamo vivendo in un periodo di inflazione veramente molto bassa. Adesso insomma. Sì. Tutto il settore del largo consumo anche negli anni passati è stato un settore che ha contribuito molto poco alla crescita dei prezzi, perché la chiave di volta è stata quella di un sistema in cui c'è una forte concorrenza. Io penso che da questo punto di vista sia necessario invece avere una maggiore ondata di liberalizzazioni in quei settori che sono settori protetti, i trasporti, le professioni, i servizi pubblici locali, e in questo ambito che le famiglie si trovano obbligate a sviluppare molte spese, sono spese obbligate, e di fronte al fatto che poi viene certificato da OCSE che i salari in Italia non crescono, è chiaro che si corre il rischio di andare in difficoltà, e in queste aree su cui bisogna lavorare perché ci sia effettivamente una concorrenza, mentre gli interventi di tipo amministrativo, gli interventi che in una maniera un po' dirigistica vogliono operare per controllare i prezzi, per esempio, quando nel nostro paese sono stati applicati anche in passato, hanno poi prodotto effetti più negativi che positivi. Esempio, dottor Bucaneve? Intendo dire che ci sono state a più riprese anche nell'anno scorso ipotesi di autorità che potessero controllare i prezzi, potessero imporre i prezzi e così via. Questo tipo di intervento amministrativo noi pensiamo che ingessi il mercato, lo irrigidisca. Si può senz'altro andare verso una strada più matura, e sono sicura che peraltro, da quello che ho potuto capire, domani su questi punti si soffermerà molto attentamente ed esplicitamente il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia all'Assemblea Generale, appunto, e lo sentiremo da Roma. Allora, due minuti di tempo, qua ci è volata davvero Salvadanaio questa mattina. Sentiamo un paio di ascoltatori. Brunella da Milano, benvenuta, rapidissima se ce la fa, la ringrazio molto. Grazie per avermi dato la parola e saluto tutti. La mia osservazione era semplicemente in merito alla qualità, cioè benissimo la concorrenza, ma che la concorrenza si espliti a livelli di filiera, a livelli di commercializzazione. Io penso che alla produzione questa concorrenza stia portando i contadini e le persone che allevano bestiame a fare delle spremiture ad oltranza di quello che è legittimo. Faccio l'esempio di un servizio che hanno fatto a Reporter domenica sera, dove si vedeva che queste mucche vengono munte tre volte al giorno, cioè non riescono più a figliare perché vengono spremute, quindi vengono abbattute dopo un anno e mezzo. Ecco, non so neanche se è giusto, è etico, è bello che noi umani si vada avanti in questo senso. Allora facciamo la concorrenza, risparmiamo però dove è compito nostro risparmiare, perché sennò tutto il nostro sistema biologico a monte, no? Noi siamo gli ultimi di una catena alimentare. Adesso stiamo parlando ovviamente sempre di tutti i risvolti di questa crisi clamorosa, molto pesante, che ci investe in termini globali e ovviamente ci ha, come dire, fatto anche prendere coscienza del problema della difficoltà in maniera talmente drammatica che certi aspetti ovviamente non riusciamo neanche a considerarli. Poi con maggior serenità passano i mesi e, come riusciamo a fare questa mattina, infatti si tengono anche in considerazione tanti altri aspetti, come quelli per esempio da lei giustamente sollevati. Io non riesco a sentire Roberto da Parma, lo saluto, lo ringrazio per essere stato con noi. Roberto, le darò spazio un'altra volta, così come devo salutare rapidamente, sperando di aver fatto una conversazione interessante questa mattina, Roberto Bucaneve, direttore del Centro Studi di Centro Marca, Mauro Bussoni, vice direttore generale di Confesercenti, Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento Consumatori. Salvadanaio purtroppo termina qua, ma torniamo come sempre domani. Vi auguro una buona giornata. Salvadanaio.